Noi abbiamo sentito quali sono state le dichiarazioni del candidato sindaco del centrosinistra. Insomma, sembra che abbia vinto la lotteria, perché ha detto che saranno disponibili 50-100 milioni per le scuole. Allora noi in questo mini tour vogliamo mostrare che cosa è successo fino adesso. Siamo adesso proprio davanti alle scuole Marzabotto, scuole comunali che sono state chiuse, e poi in campagna elettorale ci viene detto che verranno dati dei soldi. Queste scuole sono state chiuse nel 2015 per lavori urgentissimi. Non solo questo, ma ricordiamoci che nel 2018 ai prati di Caprara c'è stato un disboscamento con la scusa di costruire una nuova scuola. Sono passati, siamo nel 2021, 3 anni e non è successo niente. Però il disboscamento c'è stato. In questa parte della città, che non è una periferia estrema, siamo vicinissimi al centro, c'è l'assenza di spazi pubblici per socialità. Ricordiamo, e anche lì ci fermeremo, faremo una tappa, la Casa del Popolo Ventipietre, che è stato un punto molto importante di aggregazione per questo quartiere. E lì ci siamo incontrati con il Comitato Rigenerazione e la Speculazione, proprio per il discorso dei prati di Caprara, che non sta a raccontare perché oramai è conosciuto. E a 200 metri troviamo l'ex stabilimento Sabien. Sono 13 anni che è chiuso, e anche lì temiamo che saranno costruiti dei palazzi. Ma anche soltanto lunedì scorso, che c'è stato il Consiglio Comunale, abbiamo trovato, io ovviamente non l'ho votato, una delibera che vedeva la costruzione di 3 palazzi su via Emilia Ponente, all'incrocio con via Caravaggio, praticamente dietro alla Croce Rossa. Lì saranno costruiti 3 palazzi, e la cosa scandalosa a mio avviso è che il verde pubblico che dovrebbe essere costruito per obbligo viene monetizzato. Significa che i costruttori pagano, ma non ci sarà un filo di verde. E questo lo trovo allucinante in un'area molto inquinata. Torno un attimo alla questione di Ventipietre: adesso è proprio stato demolito lo stabile. Ah, adesso sì, c'è un cumulo di macerie, e io sono passata anche l'altro giorno, fa veramente tristezza, visto che appunto è stato un luogo da noi molto frequentato e potrebbe essere un luogo di socialità per quest'area, perché nel momento in cui si costruiscono soltanto palazzoni, se non ci sono luoghi di aggregazione, non c'è verde, insomma non si può parlare di un quartiere vivibile. E invece questo, insomma, ha tutte le caratteristiche per essere un quartiere vivibile. A pochi passi c'è anche l'ex CRB, anche quello. Sono anni di polemiche, perché prima si voleva costruire un supermercato, poi grazie a cittadini e a noi consiglieri in opposizione siamo riusciti a dimostrare che c'è un vincolo e non si poteva costruire un supermercato. Quindi diciamo che è stata la società civile, il comune, che non poteva fare questa cosa. E però in uno stato di abbandono è chiuso. Io, quando ho fatto l'interrogazione all'assessora Orioli in merito allo stadio provvisorio che si dovrà costruire mentre si ristruttura il Dall'Ara, mi è stato chiesto che l'amministrazione ci tiene a costruire impianti sportivi nella città, però non è possibile che poi manda in malora un posto tipo l'ex CRB, che ha la piscina, campi da tennis, insomma è una struttura bellissima e molto grande. Quindi in sostanza voi contestate la gestione che c'è stata attuale e pensate a un altro modello di città e di vivibilità. Assolutamente, noi pensiamo ogni quartiere deve essere tipo un centro, deve avere i suoi luoghi di socialità, i suoi luoghi di aggregazione, i suoi servizi, non possono essere soltanto luoghi fatti di palazzoni, praticamente dei luoghi dormitori. Più palazzoni ci sono e più aumenta l'inquinamento.